Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non ci piace questa legge elettorale, però pensiamo che sia il miglior compromesso possibile. Noi ne volevamo un'altra, volevamo il modello tedesco. Però pensiamo che una legge elettorale che scontenti un po' tutti sia la legge elettorale migliore. Le leggi, le regole del gioco, della politica, si fanno in Parlamento. Parola grossa, legge elettorale, eh? Questo è un marchingegno sconosciuto al mondo, un apex legomenon, lasciatemelo dire. Si parla di coalizioni? No, qui si parla di vaghi apparentamenti fatti per raccogliere voti anche con reti a strascico, liste civetta, pluricandidature, soglie di comodo. Insomma, come avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il dibattito è accesissimo. Avete sentito prima Brunetta di Forza Italia, che è favorevole a questo Rosatellum bis, alla legge elettorale, poi Bersani, fuoriuscito dal PD e ora, diciamo, leader del Movimento Democratici e Progressisti, che addirittura ha detto un marchingegno sconosciuto al mondo. Sono momenti decisivi questi per il destino della legge elettorale. Sentiamo le ultime dichiarazioni di voto. C'è proprio Ettore Rosato del Partito Democratico, che tra l'altro è il relatore di questa legge, non per niente si chiama Rosatellum. Lo sentiamo un attimo? Partito. Parlamento. Ma io rivendico che nel nostro gruppo qui ci sono colleghi, sta parlando in questo i momento, colleghi del mio gruppo, sono gente che ha rapporto con, le loro, con i loro concittadini. Prima poi dell'esito finale, il voto segreto finale. Li hanno votati, li hanno scelti nei consigli comunali quando sono entrati nei consigli comunali, li hanno scelti alle primarie, hanno fatto i sindaci, hanno fatto gli amministratori locali. Comunque tra poco locali. Ci torniamo per i vostri commenti, le vostre opinioni, lo sapete c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, poi il numero per messaggi WhatsApp che è 349-238-6666, 349-238-6666. Parleremo ovviamente di altro, oltre che della politica italiana, ci occuperemo anche, che riguarda comunque la politica italiana, no? La legge sul biotestamento che è lì ferma in stallo da 5 anni, c'è un nuovo caso di un uomo malato da tanti anni, paralizzato, ormai cieco, che ieri è andato in Svizzera per il suicidio assistito, perché tra l'altro ha detto le istituzioni mi hanno abbandonato, non aveva neanche più soldi per curarsi. Ce ne occuperemo con un suo amico e collega, e poi anche ci collegheremo con gli Stati Uniti, che hanno deciso di uscire dall'UNESCO perché dicono è contro la Palestina l'UNESCO, e così anche sta per fare Israele. Un sacco di cose come sempre, vi riassumo la giornata e poi cominciamo ad approfondire alcuni di questi temi. Legge elettorale attesa in aula alla Camera per il voto segreto, ci sono le ultime dichiarazioni. Poi Minniti blocca Forza Nuova. Non ci sarà la marcia su Roma il 28 ottobre, ma la destra insiste, il 28 ci saremo, e l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, insorge. UNESCO, Stati Uniti e Israele lasciano l'organizzazione a causa dell'ingresso della Palestina. Il caso Battisti, il presidente brasiliano Temer vuole revocare l'asilo all'ex terrorista e lui commenta: così mi consegnano la morte. Eutanasia, paralizzato da 40 anni e cieco, un uomo di 59 anni, Loris Bertocco, è ricorso al suicidio assistito in Svizzera. In una lunga lettera spiega che le sofferenze erano troppe e che le istituzioni lo hanno abbandonato. Immigrazione, l'Austria annuncia per domani l'entrata in funzione del posto di controllo antimigranti lungo la ferrovia del Brennero. RAI, nomine approvata all'unanimità dal CDA della RAI su proposta del direttore Mario Orfeo. Angelo Teoldi, nuovo direttore di RAI 1, al posto di Andrea Fabiano, che passa alla guida di RAI 2. Partiamo quindi dalla politica italiana. Dopo la terza fiducia che è passata, ora c'è l'ultima prova per il Rosatellum bis, che è il fatidico voto finale segreto alla Camera, e c'è il rischio paventato dei franchi tiratori, cioè di quelli che prima dichiarano in un modo e poi dopo nel segreto dell'urna votano in un altro. Sentiamo ancora pochi secondi Rosato, che sta per concludere, del PD. Di centrosinistra, anche se le coalizioni non sempre hanno funzionato, noi ce lo ricordiamo. Perché le coalizioni non sono delle formule elettorali, non basta scrivere bene la legge elettorale. Vabbè, colleghiamoci con la nostra Betta Fiorito in diretta da Roma. Ciao Elisabetta. Sì, ciao Roberta. Insomma, i lavori vanno un po' per le lunghe, no? Si pensava addirittura alle 20:30 ci sarebbe stato l'esito, mi sembra un po' lontano ancora. Beh, insomma, diciamo che questo è l'ultimo intervento, poi ci sarà un breve intervento personale, quindi diciamo che fra 10 minuti massimo si saprà l'esito di questo voto segreto, che fa un po' tremare il PD, Ricordiamo che quest'oggi è passata la terza fiducia con 309 sì, 87 no e 6 astenuti, e che MDP ha chiesto poi il voto a scrutinio segreto. Quindi è da sinistra che è arrivata questa richiesta, che comunque sarebbe stata fatta anche dagli altri gruppi che non approvano questa legge. Sulla carta i voti sono 441, si parla però anche di una settantina di franchi tiratori. Ricordiamo che c'è il sì di Forza Italia, Lega, PD, AP, Scelta Civica, ALA e Civici Innovatori. È anche passata una norma che si dice salva Verdini per la possibilità di candidarsi, anche se residenti in Italia, nei collegi esteri, norma che ovviamente chi sta studiando la legge dice che non è stata fatta assolutamente per Verdini. E c'è un intervento molto molto acceso anche di Rosato, c'è stato prima l'intervento di Luigi Di Maio. A questo proposito ricordo che il Movimento 5 Stelle ha manifestato in piazza per tutta la giornata, era atteso Beppe Grillo che poi non è arrivato, Roberta, e quindi c'è un po' di delusione. Si era visto una foto di lui con un piede finto sulla spalla, sì, poi dopo comunque il piede si è allontanato. Ci domandiamo a che cosa servisse questo piede, però intanto lui in piazza non è arrivato, forse la piazza non era pienissima, ieri era più piena e quindi forse questo l'ha demoralizzato, non lo so, insomma comunque le proteste sono andate avanti per tutta la giornata e abbiamo sentito anche l'intervento di Di Maio molto molto acceso, che dice appunto l'Italia non vi assolverà da questa ennesima legge truffa, ecco insomma, dice il Rosatellum fondamentalmente fa piombare il paese nel caos. Adesso aspettiamo, manca pochissimo momenti decisivi, che cosa succederà di questo Rosatellum. Buon divertimento a Betta Fioritoli alla Camera. Ciao Betta. E adesso, ciao Betta, parliamo di una notizia che riguarda la pubblica amministrazione. Oggi c'è stato il via libera a 7.903 assunzioni, la maggior parte delle entrate riguardano le forze dell'ordine, 5.149 tra polizia, carabinieri, vigili del fuoco e guardia di finanza. Tra i concorsi da bandire alcuni riguardano i ministeri, altri l'INPS e l'Agenzia delle Entrate. Domani anticipo di manovra al Consiglio dei Ministri, arriverà sul tavolo del Governo il decreto fiscale. Parlando dall'assemblea dell'ANCI, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni rassicura che la manovra eviterà l'aumento dell'IVA e non introdurrà nuove tassazioni che avrebbero, dice, l'effetto depressivo. Ora a Roma, dove c'è la polemica sul corteo di Forza Nuova. 95 anni dopo, il fantasma della marcia su Roma torna ad aleggiare nella capitale, nel braccio di ferro tra Forza Nuova, intenzionata a sfilare ad ogni costo, nello stesso giorno in cui il fascismo prese il potere, e il Viminale, fermo nel suo divieto ad ogni corteo. Oltre alla data, ora ci sono anche un luogo e un orario per la cosiddetta Marcia dei Patrioti, la manifestazione organizzata per il 28 ottobre all'EUR a partire dalle 14. Il tema è costituzionale, scrive su Facebook Roberto Fiore, segretario del partito, dopo aver avviato la richiesta per l'autorizzazione al corteo, ma il ministro dell'interno Marco Minniti è fermo nel suo no. Non ci sarà alcuna manifestazione, chiude, confermando di aver dato al questore disposizioni perché non venga accordato alcun permesso, come già aveva spiegato in Parlamento. Ma Forza Nuova tira dritto e promette di essere comunque in piazza quel giorno, tra la preoccupazione dei partigiani che considerano questo un atto eversivo. Lo Stato intervenga o costringe i cittadini a doverci pensare, è l'appello del presidente dell'ANPI Carlo Smuraglia. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso procediamo invece con le notizie dall'estero. Gli Stati Uniti lasciano l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Cultura e la Pace, cioè l'UNESCO, dopo l'ingresso della Palestina e dopo le risoluzioni che hanno condannato Israele e gli insediamenti nelle zone palestinesi. Pregiudizi contro lo Stato ebraico, spiega Washington come motivazione. La decisione entrerà in vigore il 31 dicembre 2018, quindi tra un anno. Soddisfatto il primo ministro israeliano Netanyahu, che dice è stata una scelta coraggiosa quella di Trump, ha dato istruzioni per l'uscita anche di Israele. E la direttrice dell'UNESCO, Irina Bokova, esprime un grande rammarico per questo, mentre il Cremlino parla di una triste notizia. Poi ci torneremo su questo argomento. Ci spostiamo adesso sulla vicenda di Cesare Battisti, l'ex terrorista che torna a parlare sui nuovi passi verso l'estradizione. Mi consegnano, dice, alla morte. Tutto fermo, e questo non necessariamente una brutta notizia sul fronte estradizione. In Brasile oggi è giorno festivo, Nostra Signora dell'Aparecida, santa protettrice della nazione, politica e magistratura non lavorano. Il quotidiano Estado di San Paolo ha pubblicato oggi un'intervista nella quale Cesare Battisti sostiene quello che viene dicendo da anni, che è un perseguitato e che l'Italia si accanisce ingiustamente contro di lui. Mi vogliono condannare a morte perché in un penitenziario italiano, dice, sarei in pericolo. Tutto ora dipende da Luis Fux, ministro della Corte Suprema, che deve decidere sul ricorso presentato dalla difesa, che punta tutto sulla inviolabilità del decreto firmato nel 2010 da Lula da Silva e anche sul fatto che Battisti ha un figlio brasiliano di 4 anni che dipende dal suo sostegno economico. Fux ieri ha partecipato ad una maratonica sessione di 10 ore dal massimo tribunale che doveva decidere sulla decadenza dei parlamentari accusati di corruzione. Oggi, giorno di riposo, da domani aprirà di nuovo il dossier più importante nei rapporti diplomatici fra Italia e Brasile. Emiliano Guanella, Radio 24, Sole 24 Ore, San Paolo. E adesso in Spagna, dove oggi c'è stata la festa nazionale. La crisi catalana e il tragico incidente a un Eurofighter nel quale ha perso la vita un pilota hanno rovinato la giornata di festa nazionale spagnola che mai come quest'anno è stata dedicata all'unità del paese in un passeo della Castellana madrileno invaso da migliaia di cittadini per la tradizionale parata delle forze armate. Nella parterre d'onore assenti i presidenti catalano, basco e della Navarra, visualizzazione plastica di quanto il paese sia in crisi nella sua coesione. L'orologio corre verso la scadenza degli ultimatum imposti dal premier Rajoy a Barcellona. La leadership catalana fa trapelare tutta la delusione nel tweet del presidente Puigdemont. Chiediamo dialogo e mettono la sospensione dell'autonomia sul tavolo. Abbiamo capito. Da Madrid proseguono le minacce velate. Se il ministro degli esteri D'Astis afferma di sperare di non dover arrivare a un arresto del presidente catalano, io tengo la casi completa seguridad. La ministra della difesa Cospedale si dice certa che non ci sarà bisogno di inviare l'esercito in Catalunya. Catalans! A Barcellona alcune decine di migliaia di unionisti sono scesi in piazza per chiedere a Puigdemont di fare marcia indietro. Un centinaio di municipi catalani sono rimasti aperti, ignorando la festività spagnola. E infine Human Rights Watch accusa il 1 ottobre la polizia iberica ha fatto ricorso a un uso eccessivo della forza contro i civili ai seggi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sentiamo se la Presidente della Camera, Laura Boldrini, dà qualche risultato. Vogliamo sentire in questo momento in diretta? Vediamo, Scrutinio segreto sulle votazioni finali del provvedimento. Tale richiesta è stata accolta. Indico la votazione finale a scrutinio segreto sul testo unificato delle la votazione, proposte di quindi... legge recanti modifiche del sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali. Dichiaro aperta la votazione. Vediamo che succede. Grande suspense. Ci saranno i franchitiratori oppure no? Passerà la legge elettorale? Musumeci oppure no? Frusone. Mongello. Lotti. Albanella. Sciauchi. Vediamo che succede. Allora, hanno votato tutti i colleghi? No. Sta richiamando all'ordine qualcuno. Controlliamo bene che non ci siano braccia alzate. Chi? Brandolin. Peggio che in un'aula della scuola, qui. Chi altro? Ci siamo? Speriamo. Aiutatemi a vedere. Tutti hanno votato. Attenzione. Votazione è chiusa. Chiusa la votazione, cosa si è deciso? Favorevoli 375, contrari 215. Passata. La Camera approva. Approva il Rosatellum bis, abemus Rosatellum bis, abemus allora. Legge elettorale. Allora ne parleremo tra pochissimo. Intanto vi ricordo velocemente le altre notizie, parlando di eutanasia, un uomo di 59 anni, Loris Bertocco, tra i fondatori tra l'altro dei Verdi Italiani, attivista in materia di ambiente, paralizzato da 40 anni e ormai cieco, ha scelto di mettere fine alla propria propria vita chiedendo l'eutanasia in Svizzera, dove è morto in una clinica di Zurigo ieri. In un memoriale racconta le sue sofferenze e spiega di essere stato abbandonato dalle istituzioni e ormai senza più soldi per curarsi. Dopo approfondiamo questo argomento, questa vicenda e anche il tema della legge sul biotestamento che ferma da 5 anni in Parlamento a proposito di votazioni e parliamo anche dell'accusa alle istituzioni all'abbandono. Immigrazione, l'Austria ha annunciato per domani l'entrata in funzione del posto di controllo antimigranti lungo la ferrovia del Brennero. Da tempo le autorità austriache, in collaborazione con quelle italiane, controllano i treni internazionali diretti a nord. E poi, fra le altre notizie, RAI, nomine approvate all'unanimità dal CDA della RAI, ne parleremo più tardi. E poi questa sentenza della Cassazione: rubare le caramelle, un furto da 9,80 euro, può costare il posto al dipendente di un supermercato. La Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa di un addetto al rifornimento degli scaffali trovato a fine turno in possesso di merce di poco valore, appunto 9,80 euro, che non aveva pagato. Ad avviso della Corte, il comportamento fraudolento ha minato in maniera irreversibile il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. L'ex dipendente è stato anche condannato a pagare le spese di giudizio in Cassazione per oltre 3.500 euro. Poi parliamo di antenati. Per chiudere, pesava solo 5 kg e non superava il metro di altezza. L'antenato comune degli esseri umani e scimpanzé era molto più piccolo di quanto finora creduto, aveva infatti le dimensioni di un gibbone e quanto dedotto dai ricercatori guidati da Mark Gabronski dell'Università di Tubinga, confrontando le dimensioni dell'uomo e dei primati moderni con quelli preistorici. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Communication, aggiunge nuovi elementi nella ricostruzione dell'evoluzione umana. Insomma, ogni tanto c'è qualche aggiustamento, qualche nuova scoperta, un aggiustamento di tiro sulla nostra evoluzione. Allora, ci lasciamo proprio pochissimo con questa notizia, dunque, che la Camera dice sì al Rosatellum bis, e ne parleremo tra pochissimo. Avete domande, avete dubbi, i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp ed SMS che 349-238-6666. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E adesso ve le ricordo le notizie, anche se la principale l'avete sentita proprio mentre eravamo in corso d'opera con il riassunto della giornata. Roberta Giordano sempre con voi. La notizia principale è che la Camera ha approvato pochi istanti fa il Rosatellum bis, la legge elettorale, con 375 sì e 215 no, e poi adesso la legge elettorale andrà in Senato. Manifestazioni di protesta del Movimento 5 Stelle anche in piazza, oggi doveva esserci Grillo, pare che non sia apparso. E poi, per quanto riguarda le altre notizie, Minniti che blocca Forza Nuova e dice la marcia su Roma non ci sarà, ma la destra insiste, il 28 ci saremo, e l'ANPI insorge. Poi Stati Uniti e Israele che lasciano l'UNESCO a causa, dicono, dell'ingresso della Palestina. Il caso di Cesare Battisti, il presidente brasiliano Temer vuole revocare l'asilo all'ex terrorista e lui commenta: così mi consegnano alla morte. Un nuovo caso di eutanasia, paralizzato da 40 anni e cieco, un uomo di 59 anni, Loris Bertocco, si è recato in Svizzera per il suicidio assistito. In una lunga lettera spiega che le sofferenze erano troppe e che le istituzioni lo hanno abbandonato. E poi RAI, nomine approvate all'unanimità dal consiglio di amministrazione dell'azienda. Allora, cara Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, la Camera ha approvato. Adesso, approvato. Vediamo il Senato, non ci dovrebbero essere però grosse difficoltà, ma spiego alle ascoltatrici e agli ascoltatori, stiamo parlando appunto del Rosatellum bis, dopo il Porcellum, il Consultellum, l'Italicum, il Legalicum, insomma sembra che debba quasi diventare legge, aspettiamo di vedere cosa succede al Senato, il Rosatellum bis. Vi rispiego molto brevemente, in sintesi, come funziona, in modo molto semplice, che è un sistema misto, un po' maggioritario e un po' proporzionale, soprattutto proporzionale. Un terzo circa dei deputati e senatori verrà eletto con collegi uninominali, cioè quello che arriva prima, che ha più voti, vince. Il resto dei parlamentari, quindi la maggioranza di quelli che restano, viene eletto con sistema proporzionale, proporzionale, cioè i seggi vengono assegnati in base alle percentuali di voto che ottengono i partiti. Non ci saranno le preferenze, i partiti presenteranno invece delle liste bloccate, corte, di 2 o 4 nomi al massimo. Sono possibili le coalizioni, la soglia di sbarramento per i partiti è del 3%, cioè quelli che ottengono meno del 3% dei voti non arrivano in Parlamento. Per le coalizioni la soglia di sbarramento è il 10%. Un candidato può correre in un collegio uninominale e mi pare in 5 listini bloccati. Comunque poi sulle schede, che saranno 2, una per la Camera e una per il Senato, ci saranno le istruzioni. A questo punto, cara Barbara, vogliamo sentire qualche voce di oggi che è sempre valida, perché chi era contento, chi era favorevole, lo è tuttora, e chi era scontento lo è ancora adesso. Allora sentiamo Brunetta di Forza Italia. Non ci piace questa legge elettorale, però pensiamo che sia il miglior compromesso possibile. Noi ne volevamo un'altra, volevamo il modello tedesco, però pensiamo che una legge elettorale che scontenti un po' tutti sia la legge elettorale migliore. Le leggi, le regole del gioco della politica si fanno in Parlamento. Già arriva questo messaggio di Walter al 349-238-6666 che dice: la legge elettorale che scontenta tutti, il voto è segreto, non succederà niente, gli italiani non hanno compreso per l'ennesima volta la presa in giro. Sentiamo Bersani invece di MDP. Parola grossa, legge elettorale, questo è un marchingegno sconosciuto al mondo, un apax legomenon, lasciatemelo dire. Si parla di coalizioni? No, qui si parla di vaghi apparentamenti fatti per raccogliere voti anche con reti a strascico, liste civetta, pluricandidature, soglie di comodo. Insomma, molto critico Bersani, raccogliere voti con le reti a strascico. Critica naturalmente anche la sindaca Raggi del Movimento 5 Stelle, che oggi era in piazza a manifestare fuori Montecitorio, appunto nella manifestazione del Movimento. Per far sentire la voce dei cittadini, a chi vuole cambiare alla vigilia delle elezioni di nuovo la legge elettorale. Questo è vergognoso, non si cambiano le regole del gioco così. E poi c'è una spaccatura in quella che dovrebbe essere la coalizione di centrodestra, cioè sono d'accordo Forza Italia e Lega, però Fratelli d'Italia con la presidente Meloni non è per niente d'accordo. Sentiamo cosa ha detto. Gli italiani possono votare purché il loro voto non conti niente. Andate a votare, tanto. Non potete scegliere il partito, non potete scegliere il parlamentare, non potete scegliere la coalizione, non potete scegliere il premier, ma andate a votare. Barbara Fiammeri, allora, io ho spiegato in sintesi, ci spieghi tu per quale motivo e quali sono le motivazioni, per esempio, del Movimento 5 Stelle? Perché non piace per niente il Movimento 5 Stelle o anche MDP? Allora, al Movimento 5 Stelle non piace appunto perché per vincere nei collegi è più facile vincere se ci si coalizza, mentre i 5 Stelle non si vogliono mai coalizzare con nessuno. Non piace a MDP per una ragione analoga, ovvero perché perché non vogliono coalizzarsi a loro volta con il PD e quindi rischiano di rimanere marginati in questo modo nella scelta degli elettori sui collegi maggioritari. Questi sono i motivi sostanziali. Senti, invece tra le varie norme, diciamo, più contestate c'è questa definita salva Verdini, che sarebbe quella della candidabilità all'estero dei residenti in Italia, cioè consente ai residenti in Italia di candidarsi nella circoscrizione estera. Com'è la questione? Sì. Sinceramente, allora io non lo so perché è stata definita, lo dico tranquillamente agli ascoltatori, io non so perché è stata definita salva Verdini. Lo so, il Movimento 5 Stelle lo dice mentre l'usato dice sì, non c'entra niente, illuminaci tu. Nel senso, perché salva Verdini, non è che Verdini solo può essere votato nella circoscrizione estera, io la come dire, la lettura. Forse perché che... è un importante appoggio nel caso. No, credo semplicemente. Credo che il retropensiero sia che Verdini è molto chiacchierato in Italia e quindi difficilmente troverebbe posto in una lista in Italia, mentre all'estero potrebbe in qualche modo farla franca, insomma, raccogliere. Quindi. Però va detto che innanzitutto senza un partito anche all'estero è difficile raccogliere voti. E in secondo luogo cioè questo ragionamento lo possiamo fare per altri anche esponenti politici, cioè secondo me è stato più un modo di allargare la possibilità di avere seggi, e sottolineo che questa norma è stata presentata dal capogruppo di Alternativa Popolare dei centristi di Alfano, che non sono in buoni rapporti con Verdini, e quindi mi sembra più un modo per garantire altri seggi oltre quelli italiani, diciamo, all'estero. Questa è la lettura che do io di questa norma. Senti, dice per esempio Natascia da Prosecco, scrive, ricordo per i vostri interventi, le vostre domande, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero 349-238-6666 per scrivere SMS e WhatsApp. Dicevo, Natascia da Prosecco dice: il Rosatellum sembra un'ennesima presa in giro dei cittadini molto più rispettosi dell'elettorato i tedeschi. C'era stato anche un Tedeschellum, come si chiamava, no? Che poteva essere, mi pare che non dispiacesse al Movimento 5 Stelle. Comunque ormai diciamo è quasi sì, fatta, però, in questo però, senso. Scusami, prego. Cioè, va detto una cosa, è verissimo, cioè, Brunetta è uscito dall'aula dicendo, Brunetta è il capogruppo di Forza Italia. Sì, che abbiamo sentito poco fa. Ecco, ha detto che questa legge non gli piace, no? Allora, però dice il compromesso migliore dal suo punto di vista. È il compromesso, ed è vero questo, nel senso che una legge elettorale è per inevitabilmente è un compromesso, a meno che non la fai a colpi di maggioranza, come è stato per esempio per l'Italicum. Cioè, se tu decidi di aprire alle altre forze politiche, anche di opposizione, inevitabilmente andrai incontro a dei desiderata diversi, no? Dai tuoi. Per esempio il Tedeschellum, che era un sistema totalmente proporzionale, aveva l'avallo dei 5 Stelle, no? Il famoso patto dei 5 Stelle con Salvini, Berlusconi e Renzi. E in quel sistema, ad esempio, tutti i parlamentari erano nominati, non c'erano neanche i collegi uninominali, non c'erano le preferenze, non c'era il voto disgiunto, esattamente come non c'è in questa legge. Però allora quel patto lo sottoscrissero. Quindi, ma perché? Non perché i 5 Stelle fossero contrari alle preferenze, ma perché anche loro, per trovare un'intesa che avesse l'appoggio ampio del Parlamento, avevano dovuto rinunciare ad alcuni aspetti. Poi è andata come è andata, nel senso che poi quella legge fu affossata su un emendamento che non c'entrava niente né con le preferenze né col voto disgiunto, ma era sui collegi del Trentino Alto Adige. E quindi quel patto si è rotto, si è formato un nuovo patto senza i 5 Stelle, con appunto Forza Italia, Lega, Partito Democratico e i centristi di Alternativa Popolare, e il punto di mediazione è stato il Rosatellum bis. Questo è quello che è accaduto. Poi ci può piacere o non può piacere, però è, come dire, un compromesso in cui ciascuna delle forze politiche, come era nei precedenti patti sui vari sistemi, sono sempre frutto di un compromesso. Barbara, senti, poi ti leggo questo messaggio di Roberto, ma tu hai fatto per caso un calcolo dei possibili, questo voto franchi tiratori? Sono pochi. Pochi, molti più meno o meno di quanti mi aspettassi. Se ne aspettavano una settantina, invece una quarantina, quindi. Una quarantina. Secondo te più in quale file? Perché mi pare che sia dentro il PD che in Forza Italia ci fossero degli scontenti. Allora, forse ecco, sto rifacendo i calcoli adesso. Con la calcolatrice, lì la calcolatrice. Sì, sì, con i voti, perché mi avete chiamato proprio mentre stavo scrivendo. Una sessantina. 65, 66. Però non avendo tu la sfera di cristallo non puoi dire se più PD, più Forza Italia. Io direi che sicuramente più PD, perché vado in proporzione, all'ampiezza dei gruppi parlamentari. Il PD da solo ne ha 282, devo immaginare che il maggior numero di franchi tiratori venga, insomma, per logica, venga da lì. Senti, ultima domanda perché poi ci dobbiamo lasciare. Vediamo, allora, vabbè, Nicola da Milano dice: Di Maio, ottimo oratore, degno dei migliori sofisti, ma sempre sofista rimane. Con lui il buon Grillo sono finiti, amen, non credo, Nicola, sono comunque sempre il secondo, il primo partito per il momento in Italia. Poi Roberto invece scrive da Verona: ai 5 Stelle non piace questa legge perché è stata fatta apposta per escluderli, e voi giornalisti lo dovreste dire. Come dire? Ma ho questa tesi, no? Cioè, allora, questa tesi che li vogliono fare fuori, Cioè, i 5 Stelle, faccio un esempio, sì. Se si alleassero con la sinistra di MDP piuttosto che con Fratelli d'Italia, che questa, prendo due partiti che questa legge non l'hanno votata, no? Tentassero un'alleanza, potrebbero ottenere molti, ma molti più seggi di quanti riotterranno se rimangono da soli. Però si sa se che loro non si vogliono alleare, sì, no? Ma se l'obiettivo, scusate, ma se l'obiettivo è il 51%, perché il loro obiettivo è il se tu non ti vuoi alleare, devi prendere il 51%, il 50 più 1. Non ce l'avrai mai da solo, da solo in nessun paese, tranne che nei paesi dove si fanno i plebisciti, ricordo, esiste un governo che ha il 50 più 1 degli elettori. Sono sempre o sono coalizioni, vediamo il caso della Germania dove si sta formando un governo formato appunto da partiti di provenienza opposta, oppure in sistemi maggioritari, cioè in sistemi dove il numero dei voti non corrisponde ai seggi che tu hai in Parlamento, perché ci sono dei premi. Se tu prendi ad esempio com'era l'Italicum o com'era il Mattarellum, che aveva 2/3 di collegi maggioritari, cioè non c'è più la proporzionalità dei voti, per cui io magari che prendo il 35-40% posso governare da solo perché la legge elettorale mi dà un premio. Accade negli Stati Uniti, accade in questo caso il premio non c'è. In questo caso il premio, allora, in questo caso il premio è dato dai collegi maggioritari, perché è lì che si forma la cosiddetta disproporzionalità, nel senso che tutti i partiti avranno i loro parlamentari sulla base delle percentuali che avranno ottenuto sulla parte proporzionale. Però poi, siccome ci sono 232 alla Camera seggi, collegi maggioritari, e come tu hai spiegato bene, lì dice chi prende un voto in più, più i partiti che conquisteranno collegi maggioritari avranno avranno un numero di deputati e di senatori superiore alla percentuale di voti che hanno ottenuto. Barbara, ci dobbiamo purtroppo lasciare, i tempi stringono moltissimo, tanto adesso c'è il passaggio al Senato, ci sarà, e quindi ci sarà modo tranquillamente di ritornare sull'argomento. Grazie Barbara Fiammeri, buon grazie lavoro, a voi, buonasera. Salutaci la calcolatrice, adesso ci prendiamo questa piccola pausa e poi ritorniamo sugli altri argomenti. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. State ascoltando Effetto Notte? Allora siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Continuano ad arrivare vari messaggi sulla legge elettorale, sapete che è stato appena approvato alla Camera il Rosatellum bis, poi magari se c'è tempo li leggerò, comunque ricordatevi di mandarli soprattutto nello spazio in cui se ne parla dell'argomento. Adesso cambiamo completamente tema, che però vi dicevo già all'inizio è collegato purtroppo con la politica. Parleremo tra pochissimo di eutanasia e anche di biotestamento, però vi ricordo appunto che le notizie principali velocemente sono queste, quelle appunto che la Camera ha approvato il Rosatellum bis con 375 sì e 215 no, ora passerà al Senato, secondo la maggioranza di governo dovrebbe metterci più o meno l'iter 2 settimane circa. Poi Minniti che blocca Forza Nuova, che vorrebbe il 28 ottobre fare la marcia su Roma, la destra insiste, noi ci saremo, e l'Ampi insorge. Stati Uniti e Israele lasciano l'UNESCO a causa, dicono, dell'ingresso della Palestina. Il caso Battisti, il presidente brasiliano Temer vuole revocare l'asilo all'ex terrorista e lui commenta, così mi consegnano la morte. Ora parleremo del tema che vi dicevo, e poi Rai, nomine approvate all'unanimità dal CDA dell'azienda, poi parleremo anche di questo. Quindi, come vi dicevo, una nuova dolorosa vicenda riaccende i riflettori su un tema estremamente delicato, che è quello appunto dell'eutanasia, della dolce morte, del diritto a morire. La storia è quella di Loris Bertocco, di 59 anni, originario di Venezia, paralizzato da 40 anni e poi negli ultimi tempi paralizzato per un incidente stradale che aveva avuto nel 1977. Le sue condizioni sono diventate sempre più gravi, è diventato anche cieco, e la malattia negli anni non gli ha comunque impedito di impegnarsi su vari fronti, perché era un ambientalista, un attivista, animatore culturale, aveva condotto anche delle trasmissioni radiofoniche per anni. Poi però la sofferenza è diventata così insopportabile che ha deciso di andare andare in Svizzera per essere aiutato a morire, è morto ieri. Una storia quindi che si aggiunge a quelle tra le più recenti di DJ Fabo o di Davide Trentini, l'ex barista malato di SLA che aprì una sottoscrizione per pagarsi il suicidio assistito. Riaccende anche i fari sulla legge del biotestamento che è ferma in Parlamento da 5 anni. Ne voglio parlare con un amico e collega di Bertocco, che è Gianfranco Bettin, sociologo e scrittore. Buonasera Bettin. Buonasera. A parte il dolore, Bettin, ma bisogna dire che Bertocco ha spiegato le sue motivazioni in una lunga lettera, in un memoriale, no? Dove ha detto anche una cosa gravissima: a parte le sue sofferenze, ha detto che si è sentito abbandonato dalle istituzioni. Sì, è accaduto in un momento preciso, quando dopo l'aggravarsi della malattia lui ha chiesto un supplemento di contributo, cioè ha chiesto di poter accedere a un fondo apposito per i casi gravi o gravissimi di disabilità che la regione aveva attivato dopo molte iniziative, molte lotte, un certo movimento a cui lo stesso Loris aveva partecipato e sviluppatosi in tutto il Veneto ma anche in altre regioni. Malgrado il parere favorevole dell'ULS locale e malgrado il parere favorevole del suo comune, un piccolo comune della provincia di Venezia che non ha le risorse ovviamente di per sé per affrontare questi casi, malgrado questi due pareri favorevoli, per 2 volte la commissione regionale preposta gli ha rifiutato l'aiuto. Si sarebbe trattato di una cosa di tipo, non so, 1.000-1.500 euro al mese al massimo per raddoppiare l'assistenza. Lui aveva 2 piccole pensioni per un analogo ammontare, diciamo attorno ai 1.000 euro, 1.500 euro, con cui riusciva a pagarsi un assistente. Le aveva 2 perché era doppiamente invalido, no? Paralizzato e cieco. No? E con quei soldi pagava l'assistenza 24 ore al giorno per 7 giorni, garantita di solito da una persona che dopo un po' non ce la faceva più, ovviamente, e ce l'avrebbe fatta ancor meno se non ci fosse stata una valorosissima madre, che però ormai è adesso anziana, e prima una moglie che è stata comunque con Loris per diversi anni e poi si sono separati. Quindi in quel momento lui si è sentito lasciato solo dalle istituzioni, perché chiedeva poco, diciamo, ma quel poco avrebbe fatto la differenza per lui. In questo modo Bettin ha anche un po', diciamo, disvelato l'ipocrisia, no, delle nostre istituzioni, dello Stato, della politica, che su questa cosa continuano a frenare, su questa legge del biotestamento, però nel contempo non danno neanche... Non ti garantiscono di vivere un po' meglio la tua... Dignitosamente. Dignitosamente la tua condizione. Ed è esattamente su questo che lui alla fine ha molto insistito nel memoriale. Prima ci ha, con quel racconto molto sobrio ma molto oggettivo ma terribile, insomma, ci ha portati dentro la condizione di uno progressivamente paralizzato e poi reso cieco. Ci ha mostrato come avrebbe potuto in meglio, con poco, cambiare in meglio appunto la sua condizione. Ci ha raccontato come sia comunque diventato insopportabile e a quel punto nemmeno aveva la possibilità di essere accompagnata a una fine dignitosa, senza sofferenze ulteriori, nel proprio paese. Ha dovuto andare all'estero. Davvero, quindi un uomo che soffriva da morire da tantissimi anni ci ha cercato un piccolo aiuto, non gli è stato dato, e questo la dice lunga, insomma, no? Quando la politica dice ma no, noi dobbiamo garantire a tutti i costi la vita, le cure eccetera, e poi però quando si scende nel concreto di vite vere tormentate così, si capisce un po' come stanno le cose. Gianfranco Bettin, io la ringrazio perché so le è costato naturalmente. Mi dice proprio in una frase l'eredità che le ha lasciato Bertocco. È l'eredità di tutta la sua vita, dentro la sofferenza, dentro le difficoltà, non smettere di provare a vivere una vita migliore per sé e di trovare le motivazioni per renderla migliore anche agli altri, trovando anche le ragioni politiche che la possono migliorare, gli strumenti politici. Purtroppo per lui è andata solo parzialmente così, perché quel fondo si era attivato anche per per la sua iniziativa, anche se poi a lui concretamente non è servito, però magari è servito ad altri, quindi ci lascia comunque molte cose, oltre a una testimonianza infine straordinaria. Grazie Gianfranco Bettin. Grazie a voi. Grazie. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ve le ricordo in pochi secondi, prima di passare al prossimo tema. Abbiamo appena parlato di eutanasia, del caso di un uomo di 59 anni, Loris Bertocco, paralizzato da 40 anni, cieco, che ha ricorso al suicidio assistito in Svizzera dopo aver scritto non solo delle sue sofferenze, ma anche, come avete sentito, che era stato abbandonato dalle istituzioni. Poi, Rosatellum bis, la Camera approva la legge elettorale con 375 sì e 215 no, ora passerà al Senato. Il caso Battisti, il presidente brasiliano Temer vuole revocare l'asilo all'ex terrorista e lui commenta: così mi consegnano alla morte. Ora ci colleghiamo con gli Stati Uniti, con il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Allora, notizia di oggi è che gli Stati Uniti, il governo Trump, ha deciso di lasciare l'UNESCO, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, che fra le varie funzioni è anche quella della tutela del patrimonio dell'umanità, per l'ingresso nell'UNESCO della Palestina. E così anche Israele si è accodato, dicendo con il premier israeliano Netanyahu: coraggiosa la scelta di Trump, ho dato istruzioni per l'uscita anche di Israele. Mi pare che questo avverrà nel dicembre, fine dicembre 2018, no Marco? Sì, è così il passo formale, è stato annunciato oggi e verrà, e così si consumerà a fine del 2018. Anche se c'è questo lasso di tempo, però non può essere sottovalutata l'importanza, il significato di questo nuovo strappo diciamo, al multilateralismo. Se è vero che i rapporti tra l'UNESCO e le amministrazioni americane erano stati in questi anni non sempre facili, anzi a volte abbastanza burrascosi, già sotto l'amministrazione Obama, infatti l'amministrazione Obama aveva, diciamo, preso un po' le distanze, criticato l'UNESCO, aveva sospeso i finanziamenti all'UNESCO e perso il diritto di voto proprio, diciamo così, in protesta, in reazione all'ingresso della Palestina come membro effettivo nell'organizzazione. Ecco, però, diciamo, questa decisione di Trump rappresenta un salto di qualità, una escalation, un po' dagli esperti americani, nello strappo, nella rottura, e che fa, diciamo, parte di questa strategia, se così vogliamo dire, della Casa Bianca, di America First e di, diciamo, un atteggiamento duro dal punto di vista di quelli che ritiene essere i propri interessi al confronto con le istituzioni internazionali. In questo caso, appunto, la motivazione data è quella, diciamo, ufficialmente quella, appunto, di un pregiudizio, un bias da parte dell'UNESCO contro Israele. Ecco, la reazione dell'UNESCO è stata a sua volta chiara, ha detto sono detti rammaricati, e hanno però ribadito così la missione universale di difesa dei diritti universali, oltre che della cultura, anche ricordiamo l'eguaglianza delle donne, l'accesso all'acqua potabile, diciamo, le missioni, diciamo, a difesa dei diritti universali che svolge l'UNESCO, e appunto l'organizzazione oggi le ha riaffermati davanti a questa a questo strappo deciso da Trump. Marco, prima di chiudere ricordo che, a proposito di strappi, anche sull'Iran, sull'accordo del nucleare fatto da Obama e anche sull'Obamacare, Trump si sta muovendo, no? Detto proprio in un minuto, adesso in questi giorni, domani dovrebbe arrivare una risposta sull'Iran. Esatto, assolutamente. Domani è stato preannunciato un discorso di Trump intorno a mezzogiorno americano, anzi 12:45 americano, quindi a 6:45 italiane, in cui dovrebbe così presentare il caso contro l'accordo nucleare sull'Iran. C'è molta attesa e nervosismo per capire come verrà calibrato questo discorso, se sarà una rottura forte, completa, o se lascerà comunque aperto qualche margine di ulteriore mediazione. Stessa cosa, come ricordavi, sulla riforma sanitaria in campo domestico, dove ha firmato un ordine esecutivo per cominciare a smantellare così criteri e diritti legati a Obamacare. Grazie Marco Valsania. Ciao Marco, da New York. Grazie a voi. Ora invece in casa nostra, in casa Rai, con la nostra Marta Cagnola. Ciao Marta. Eccoci qua, buonasera Roberta. Oggi il Consiglio di Amministrazione Rai ha approvato le nuove nomine, cambio di direttori, c'è anche una questione di ascolti forse? Allora, guarda, quando ci sono dei cambi di direttori, in generale qualcosa non andava. In Rai, insomma, bisogna un po' alzare le antenne. Allora, facciamo un passo indietro. Quest'estate grandi polemiche con Penso, Di Fazio, si è mossa la politica, è successo di tutto. In questo periodo, insomma, parte che tempo che fa Di Fazio, e forse gli ascolti non erano esattamente quelli sperati. Non solo che tempo che fa, ma anche che fuori tempo che fa, insomma, gli ascolti non sono l'esploit che si aspettava. Cos'è successo? Ma insomma, non so se a pensar male si fa sempre bene, ma insomma, fatto sta che oggi il CDA Rai, come dicevi, ha cambiato il vertice di Rai 1. Andrea Fabiano, che era direttore di Rai 1, è passato a Rai 2. Angelo Teodoli, che era il direttore di Rai Gold, cioè Rai Movie, Rai Premium, Rai 4, è diventato direttore di Rai 1. Cosa succede? Cosa c'è dietro? Allora, il direttore generale Orfeo ha detto: no, non dite che la Rai è in crisi di ascolti, non lo è, anzi Rai 1 ha fatto più 0,7% rispetto all'anno scorso. Certo è che se qualcosa è cambiato, forse qualcosa non ha convinto. Sarà per colpa di Fazio, sarà per colpa di altri due flop, che sono La Vita in Diretta, che praticamente ha gli ascolti dimezzati rispetto a Pomeriggio 5, o questo Game Zero Elode, che è stata insomma una pensata non proprio azzeccatissima perché fa malissimo, e non lo possiamo sapere. Rimangono i punti interrogativi a questo sì, punto. Sì. Il cambio, abbiamo comunque messo tutte le carte in tavola, una risposta univoca non c'è. Grazie Marta Cagnola. A presto. Ciao Marta, e adesso noi ci lasciamo brevemente, perché poi alle 22 come sempre vi ricordo i titoli principali.